Italia in controluce. È il 28 di luglio ed è la seconda edizione di Italia in controluce. Questa è una storia di memoria, una storia di treni, di giovani, di passato che non deve mai essere dimenticato. Il reportage di Dario Ricci. Viaggio lungo 1192 km e più di 60 anni. Tanto c'è tra la stazione ferroviaria di Carpi, vicino Modena, e Auschwitz, in Polonia. Dalla stazione di Carpi partivano, sui convogli predisposti dai nazifascisti, gli internati del vicino campo di Fossoli. Destinazione Auschwitz, campo di sterminio, simbolo dell'Olocausto. Marzia Luppi, professoressa e presidente della fondazione Ex Campo Fossoli. Il periodo più drammatico della storia di Fossoli è chiaramente quello relativo al 43-44, quando a seguito dell'8 settembre, della nascita della Repubblica Sociale Italiana, diventa campo di transito per ebrei diretti nei lager tedeschi e poi anche campo di transito per i deportati politici. Tra il 43 e il 44, dicembre 43 e agosto 44, transitano da Fossoli oltre 5.000 deportati, 2.843 ebrei. Il dovere della memoria, l'obbligo di ricordare ciò che accadde perché non possa più accadere, fa sì che oggi da Carpi parta un altro treno. Un convoglio che porta di fronte al cancello di Auschwitz oltre 600 studenti delle scuole superiori emiliani. Quelli che allora furono treni di disperazione e morte divengono oggi convogli di testimonianza e speranza. Come sottolinea Eugenia Saetti, della quinta H dell'Istituto Meucci di Carpi, che prenderà parte al viaggio. Sicuramente sarà un'esperienza strana e allo stesso tempo molto profonda per noi che siamo abituati, per esempio, ad utilizzare il treno come spostamento normale, insomma, come mezzo di comunicazione come tutti gli altri, e pensare che in passato fu un mezzo utilizzato con questo fine così tremendo di deportazione, per noi sarà una sensazione molto emozionante, credo. Ma cosa spinge questi studenti a scegliere volontariamente di partecipare al progetto didattico e al viaggio? Un mix di voglia di conoscere, capire, ricordare e la curiosità di vedere dal vivo, in prima persona, quello che finora hanno letto sui libri o ascoltato dai professori. Elisabetta Arzenton, della Quinta A. Credo che la miglior forma di conoscenza sia l'esperienza e credo che questa sia proprio una grande esperienza. Questo progetto mi permette di conoscere sulla mia pelle veramente quello che è successo. E anche se questo argomento è trattato, diciamo, abbastanza bene a scuola, non è così approfondito, non si capisce realmente la grandezza di su quello che è successo. In 600 partiranno. Molti altri ragazzi, invece, su quel treno non ci saranno. Del resto Auschwitz è un nome che fa paura solo a pronunciarlo. Chiara Larsier, sempre della Quinta A del Meucci. Ma tra le persone che ho sentito io, molta gente ha deciso di non aderire a questo progetto, non tanto per menefreghismo o per disinteresse verso questo fenomeno, ma più che altro perché ciò che andrebbe a provare, a vedere, a sentire, le sensazioni sono troppo forti e magari non riuscirebbe a sostenerle. Di sicuro saremo tutti un pochino più, diciamo, in riflessione personale, perché ciò che vediamo, ciò che sperimenteremo ci cambierà, ci lascerà qualcosa dentro che comunque ci porteremo sempre con noi. Il treno, il viaggio, la Polonia, Auschwitz, e poi si tornerà a casa per completare un progetto didattico fatto di video, racconti, testimonianze. Ancora la professoressa Luppi. Per noi la cosa importante è che i ragazzi anche di ritorno continuino a lavorare con i loro insegnanti, a scuola, tra di loro, perché il viaggio si torna, ma si torna per cominciare a lavorare su quello che si è visto. Ma non c'è il rischio di essere messi fuori dal gruppo, di essere additato come il diverso, quello che è andato a perdere tempo per 4 giorni al freddo e al gelo in Polonia? Andrea D'Ambrosio, della Quinta H. Secondo me la preoccupazione dell'isolazione, diciamo, non c'è nemmeno, perché comunque i ragazzi per classe sono 4 tendenzialmente, però erano molti di più quelli che volevano partecipare, infatti ci sono alcuni ragazzi che non sono potuti andare, quindi comunque non si tratterà di essere diversi dagli altri, bensì di coinvolgere gli altri in quello che sappiamo già e quindi comunque riportare a loro un feedback di quello che abbiamo vissuto. Un giorno poi questo viaggio, questi ragazzi, lo racconteranno ai loro figli. Serena Marchi, della Quinta M, quel giorno lo immagina così. Prima cosa gli direi che non si può raccontare meglio una cosa cosa se non la vedi prima, perché comunque è difficile raccontare un'esperienza che secondo me sarà molto importante, e quindi credo che la cosa più importante per loro sia affrontare anche loro questo viaggio come noi lo affronteremo in modo collettivo anche. Il treno della memoria che parte da Carpi, un altro progetto nella stazione di Milano che invece è fermo al palo. E dire che appena nel 2007 era stato il presidente della Repubblica Napolitano in persona a salutare così l'avvio dei lavori al memoriale del binario 21 nella stazione centrale. Un'iniziativa di grande significato e rappresenta una nuova forma dell'impegno di trasmissione di una delle più dure lezioni della storia contemporanea. E alle parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, avevano subito fatto eco quelle del Sindaco di Milano, Letizia Moratti. Dopo tantissimi anni è stato ripreso il progetto per creare questo memoriale della Shoah, per non dimenticare questo olocausto. Io credo che sia importante. Dal binario 21 partivano i convogli con i deportati per Auschwitz. Il ricordo di Liliana Segre, milanese, sopravvissuta alla Shoah. Devo dire che mi dimentico di me e vedo quelli che con me sono entrati spinti a calci, pugni, bastonate, non solo dai nazisti, anche dai fascisti repubblichini, non dimentichiamolo mai. Per completare il progetto è stata costituita una fondazione. Il presidente della comunità ebraica milanese, Roberto Jarak. Si erano aggregati al momento fondativo della fondazione il comune, la provincia e la regione. Questo ci aveva dato chiaramente una grande spinta, perché voleva dire aver recepito quello che era il discorso fondamentale, cioè che questo memoriale è un bene della città, è un patrimonio della città, è un patrimonio della società civile, non è un patrimonio della comunità ebraica. Memoriale, ma anche area didattica e biblioteca. Intorno al binario 21 dovrà nascere un vero centro europeo della memoria. In realtà il nostro non è un momento museale, il nostro è proprio volutamente chiamato memoriale, non museo, perché ha una sua parte che è la valorizzazione del luogo, il recupero di un luogo e di un momento storico, e una parte invece molto più viva e che sarà quella portante, che è il momento invece di acculturamento e di divulgazione delle idee, di discussione, di analisi e di sviluppo per i giovani. Questa è l'importanza che avrà poi questo memoriale nelle sue due componenti. Ma crisi economica e dilatarsi dei costi, l'intero progetto è stimato in circa 9 milioni di euro, hanno portato all'esaurimento dei fondi iniziali, circa 3 milioni, e al blocco dei lavori. Ancora Jarak. Un po' la dilatazione dei costi, ma soprattutto quello che è stato il momento economico negativo generale, ha portato molti degli enti, delle istituzioni, delle banche, assicurazioni, cioè i veri potenziali sostenitori di un'iniziativa di questo rilievo, a dover fare fronte a situazioni piuttosto complesse. E quindi tutte le donazioni, i fondi e le contribuzioni sono di fatto rimaste un pochettino bloccate. Il futuro ora è un punto interrogativo. Nell'anno del 150esimo dell'Unità, la realizzazione di un memoriale in un luogo simbolo di ciò che l'Italia è stata sembra ora affidata alla buona volontà della società civile. Sperando che basti, sottolinea Roberto Jarak. È importante il segnale che ha voluto dare il Presidente della Provincia Podestà, che ha fatto sua una proposta di lancio di una iniziativa, diciamo popolare, insomma, ma comunque di sottoscrizioni anche di piccole cifre che possano aggregare poi a loro volta cifre importanti. Quindi è un insieme di fonti dalle quali speriamo di poter trovare i mezzi per poter almeno fare un secondo stato d'avanzamento. Vi parla Daniele Biacchesi, Italia in Controluce, cercateci su Facebook, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.